E siamo all'appuntamento con il cinema Visionari il giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta della trasmissione di oggi la trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, e poi sulla pagina Facebook di Visionari, mentre per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Tanti collegamenti quest'oggi, parleremo di film e documentari in uscita in sala, ma anche di festival. Ed è con noi Anthony Ettore, co-direttore della terza edizione del Road to Ruins, suoni e visioni del rock al nuovo cinema Aquila qui a Roma da domani 9 all'11 maggio. Anthony, ben ritrovato a Visionare. Eccomi. Su Radio Onda Rossa. Grazie, sempre un piacere ritrovare te. Co-direttore, perché se non sbaglio è un triumvirato quello che guida il... Sì, siamo te, sono, diciamo che il padre fondatore è Pierpaolo De Iulis, che al Road to Ruins lo ha creato anni addietro come semplice festival di musica punk, semplice per modo di dire. Insomma, lui fa un lavoro molto importante di riscoperta della storia del punk dal 77 in poi, e quindi qualche anno fa ha deciso di coinvolgere me e anche Alessandro Zoppo per trasformare Road to Ruins in un festival cinematografico, non trascurando comunque anche la dimensione live, nel senso che parallelamente cerchiamo di creare anche degli eventi. In questo caso, in questa piccola edizione che facciamo ora, ci saranno delle performance live nel foyer del cinema Aquila. Ecco, diciamo per chi ci ascolta quali sono le caratteristiche del Road to Ruins. Allora, le caratteristiche, diciamo che il sottotitolo è Suoni e visioni del rock, nel senso che il nostro obiettivo, la nostra ricerca si rivolge soprattutto al cinema rock inteso in senso anche più ampio. Partiamo dai documentari biografici, da biopic che possano essere classici o opere indipendenti alternative al circuito, come dire, mainstream, ma come dire, il comune denominatore deve essere quello rock, quello di avere un linguaggio comunque rivoluzionario, che abbia un certo tipo di vitalità. Diciamo che anche queste edizioni, i titoli presenti in questi tre giorni di programmazione, sono rappresentative, insomma, della varietà di linguaggi a cui siamo interessati. Quindi non solo documentari, ma anche film di finzione o opere, se vogliamo dire, sperimentali. Senti, quanti sono le opere che presenterete? Allora, si tratta di 12 film che sono distribuiti tra venerdì e domenica, con una programmazione che parte dalle 16:30. Se vuoi ti faccio, insomma, per linea di massima quelli che sono i titoli più importanti per il momento. Ci tengo a citare le anteprime soprattutto. Uno è Art War, un'opera di Marco Wilms, di cui presenteremo anche la sua prima opera, Comrade Couture, che abbiamo già visto sia al Cinema Aquila ma in altre proiezioni organizzate dal Goethe Institute, che è un racconto girato in questi ultimi anni, che racconta la storia della primavera araba, raccontata attraverso lo sguardo e il vissuto di writers, di artisti che si occupano di un certo tipo di propaganda, se vogliamo, militante e non convenzionale, ed è un'opera, un film che, insomma, straordinaria, molto forte, molto intensa, perché è vissuta e raccontata da lì dentro. La caratteristica, insomma, che poi lo rende anche molto come vicino a Road to Ruins, non è solo il fatto di avere un visivamente un impatto molto forte attraverso questi murales, questi racconti musicali e questi racconti visivi, ma musicalmente c'è una colonna sonora molto forte, soprattutto di hip hop egiziano, e questa è anche una caratteristica insolita, che ci permette anche di entrare in contatto con realtà culturali non comunemente note a noi. Altra anteprima è il film di Peaches, Peaches Does Herself, che in realtà è una rock opera che è questa, l'artista canadese, ha realizzato in un teatro di Berlino, ed è un film puramente da ascoltare. Infatti tenderemo a stimolare, insomma, il cinema anche da tenere il volume un po' sopra la norma, perché si tratta di un vero concerto, una vera performance, con le caratteristiche del film, però che, insomma, in sala acquista un valore completamente diverso. Tra gli eventi, insomma, adesso io vado random, però interrompimi pure, dimmi pure quello che può essere un orientamento di una risposta, cioè se hai bisogno di sapere qualcosa nel dettaglio. No, a proposito di rock, chiaramente la curiosità è, al di là del che periodicamente si sente dire il punk è morto, il rock è morto, qual è, per come la vedete voi, l'attitudine rock? Allora, il rock è morto, questa è una frase che è sempre molto viva nel rock, che in realtà non è morto. L'attitudine rock è, per esempio, io adesso prendo un film che programmiamo, che è Factus, che è un mockumentary di Lars Jessen, ed è una sorta di This is Spinal Tap dell'elettropop, quindi è un mockumentary. L'attitudine rock è anche inventarsi e raccontare storie che in realtà non esistono, non sono reali, e quindi l'attitudine rivoluzionaria del cinema, il mockumentary non è semplicemente come dire, di pertinenza del cinema rock, ma in generale, però lo considero cinema rock a prescindere, insomma, il racconto, il documentario reinventato. L'attitudine rock si intravede attraverso, in maniera molto trasversale, nel corso del festival, attraverso vari linguaggi, che sono appunto quelli della strada, molta presenza appunto di pop, quello del racconto degli spazi occupati di Twain e Berlin, o di racconti legati alla Puglia. Qui abbiamo un film di Alessandro Valente che si intitola Vive il Rock, anche questo una sorta di mockumentary che racconta, insomma, una Puglia atipica, insolita, raccontata attraverso lo sguardo di questa sorta di Pinocchio Punk, che è il protagonista di questo mediometraggio. È Situazione, che è di Alessandro Piva, che, insomma, penso che tutti conosceremo, insomma, ricorderemo per il suo capolavoro La Casa Gira, ma poi Mio Cognato e anche altri lavori, che è un documentario sui rave reinventati nelle masserie pugliesi, che diventano luoghi di aggregazioni alternativi, avendo uno sguardo un po' antropologico su una realtà giovanile. Sì. Mi sembra che sono un po' disperso rispetto a quello che era la tua domanda, ma in realtà no, va bene, un po' ha reso l'idea. Senti Anthony, ricordando l'appuntamento al Nuovo Cinema Aquila dal 9 all'11 maggio, ci dai riferimenti internet per chi vuole sapere nel dettaglio il programma? Sì, il nostro sito è il www.roadruins.it, lì troverete appunto tutti i dettagli sulla programmazione, che appunto non solo riguarda la sala principale del Cinema Aquila, ma abbiamo anche una serie di eventi che si avranno nel foyer, dove appunto da presentazioni di libri a performance live, chiaramente acustiche, vista comunque la dimensione non proprio da concerto classico, e comunque sempre nei stessi tre giorni. Sempre dalle 16:30 cominciano le proiezioni e dalle 19 gli eventi nel foyer del cinema. Io vorrei un attimo fare una piccola parentesi su quelle che sono state poi come dire, la forza motrice di questa terza edizione del festival. Principalmente lo è stato il Cinema Aquila, che appunto ci ha ospitato e che crede nel nostro progetto sin dall'inizio, e con il quale possiamo dire abbiamo creato stiamo costruendo appunto speriamo un futuro nel festival. E per quanto riguarda appunto le collaborazioni istituzionali, ci terrei molto a ringraziare il Goethe Institute che ci ha permesso appunto a fare questo, di fare questo focus sulla Germania appunto con Join the Berlin, i due film di Malcolm Wilms, Comrade Couture e Art War di cui parlavo prima, e anche il mockumentary Fractus, oltre Ich Stas Self, per quanto sia una rissa canadese, comunque il film è una produzione tedesca ed è girato a Berlino. E altro ringraziamento all'Istituto Polacco, perché facciamo Your God, uno splendido film di Leslek David, che è una sorta di opera biografica sui Pactofonica, che è un gruppo hip hop che nell'inizio del 2000 ha avuto un grandissimo successo in Polonia, e nonostante quello insomma ha avuto una vita purtroppo breve. Vedendo il film capirete poi il perché. Insomma, avremo i registi in sala, ci saranno, c'è possibilità di incontrare incontrarli anche dopo le proiezioni per poterne discutere. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. C'è un tributo a Frick Cantoni che era dovutissimo, perché è stato ospite della nostra scorsa edizione. Proiettiamo Biograph Frick di Emanuele Angiuli, che lo ricorda in maniera molto intensa, ed era doverosissimo farlo. Poi in maniera un po' giocosa, nello spazio foglia ci sarà un tributo a Frick Cantoni con alcuni degli eredi del grandissimo Frick, sia per quanto riguarda concerti live ma anche per quanto riguarda reading, e insomma sarà tutta una sorpresa, quindi spero che accorriate numerosi al cinema. Bene. Anthony, t'abbraccio e a risentirci presto. Grazie infinite Federico, buona giornata, buon proseguimento. Ciao ciao. Anthony e Torre, co-direttore della terza edizione di Road to Ruins, suoni e visioni del rock. Siamo in collegamento con Michele Manzolini e Federico Ferrone, registi del documentario Il treno va a Mosca, in uscita in sala oggi giovedì 8 maggio. Ci siete? Sì. Oh, benvenuti. Ciao, buongiorno a tutti. A Visionari su Radio Onda Rossa. Allora, cos'è Grazie. Questo treno va a Mosca? Allora, Il treno va a Mosca è un film di montaggio, la storia di un gruppo di amici romagnoli comunisti che nel 57 prendono una cinepresa 8 mm e decidono di andare a filmare l'Unione Sovietica, il paradiso dei lavoratori. Partono per un viaggio in treno di 7 giorni aspettandosi il paradiso e scoprendo altro, insomma, quando loro ci arrivano. Durante il Festival Mondiale della Gioventù degli Studenti, quindi 30.000 giovani che per la prima volta dalla guerra si trovano a Mosca per la pace e l'amicizia nel mondo. È un film quasi interamente di montaggio, quindi girato con i loro filmati amatoriali, che sono stati trovati, restaurati e montati nell'arco di 5 anni nell'Archivio Nazionale di Film di Famiglia, un Movies di Bologna. Quindi immagino materiale inedito fino a questo momento. Materiale momento. Completamente inedito, e fino a che non l'abbiamo, insomma, che siamo andati a trovarlo dai personaggi proprio del film, protagonisti del film, dimenticato in scatoloni, in soffitto, come probabilmente moltissimo del materiale amatoriale certo. Di quegli anni. Senti, per quanto riguarda la scelta del materiale che avete utilizzato, come è stata effettuata questa scelta rispetto alla mole di materiale girato? Certamente, la mole è un materiale di diversi cinematori che filmano dagli anni 50 agli anni 80. Noi abbiamo voluto raccontare un periodo che va dal bene o male di 10 anni, dal 54-55 al 64, quindi il momento in cui l'utopia politica probabilmente ancora poteva esistere, quindi sinceramente sognare un mondo perfetto davvero poteva essere realizzabile. E abbiamo scelto di raccontare questi anni e questo, diciamo, i filmini di questo momento con Sarah Sgayer, che è stata la montatrice del film, aveva già montato La bocca del lupo di Pietro Marcello, in un arco di tempo di diversi mesi di montaggio. È stato molto complesso, perché sono materiali difficili anche solamente da guardare, perché muti, perché frammentari, non sono i film a cui siamo abituati, i film d'archivio a cui siamo abituati normalmente. E poi non c'è solo il viaggio a Mosca, ma anche un breve spazio dedicato a un viaggio in Algeria subito dopo la guerra che l'ha liberata dalla colonizzazione, e poi i funerali di Togliatti a Roma. Esatto, sì, dopo dal ritorno a Mosca i personaggi prendono strade diverse. Uno è Sauro Ravaglia, che è il nostro protagonista, decide di provare di cercare il suo sogno in un'altra posta, e viaggia appunto nell'Algeria da poco liberata, ma con i gruppi dell'estrema sinistra europea, che poi da lì a pochi anni faranno esplodere il 68. E il film si conclude, sì, con Sauro che viaggia a Roma per vedere i milioni di persone di funerali di Togliatti, ma più per dare un commiato a quel mondo, che un po' finisce con Togliatti, e si apre totalmente un'epoca politica e umana nuova. Soprattutto siete riusciti a rendere l'idea di quel periodo con le masse, la ripresa di queste masse immense e della retorica dei discorsi al microfono. Sì, noi abbiamo cercato di rendere il più possibile l'immedesimazione con il momento, perché sono filmati soggettivi, anche il racconto non ha molti appigli storici, è davvero un tentativo di immersione quasi onirica in quegli anni, e quindi quello che rimane della cosa, secondo me, più bella del film sono questi volti, questi corpi, questi fisici che non esistono più, e queste enorme masse, sia nella campagna romagnola che poi a Mosca che nelle conclusioni nei funerali a Roma. Un elemento importante è la sottolineatura musicale, con un commento piuttosto rarefatto che fa tornare indietro proprio ai ricordi, alla memoria. Sì, abbiamo ovviamente i filmati amatoriali 8 mm sono muti, quindi abbiamo dovuto fare un lavoro altrettanto di montaggio dal punto di vista sonoro, con archivi coevi dell'epoca trovati a Mosca, Praga, in Italia, e anche un commento musicale che fosse una partitura, davvero una sinfonia emotiva che desse davvero il senso emotivo del film. Le musiche sono composte da Francesco Serra, e uscirà anche una colonna sonora in rigorosamente in vinile del suo lavoro, che è stato fondamentale proprio perché per riuscire ad immergersi in questo materiale magmatico è necessaria anche una guida musicale, e penso che sia ben reso, insomma, in questo film. Sì. Senti Michele, da oggi nelle sale, in quante copie? Ma in realtà è una distribuzione più per regioni, perciò oggi saremo a Bergamo, comunque sarà a Milano, poi dalla settimana prossima andremo in Toscana, poi a Roma, in Veneto, quindi comunque sono una distribuzione a macchia di leopardo che speriamo che prosegua nel lungo periodo più che a settimana per settimana. Una sorta di tour, un altro viaggio come il treno, insomma. Un altro viaggio, sì. In certe occasioni riusciremo anche a portare come a Ravenna il protagonista del film, quindi più là probabilmente cercheremo di coinvolgerlo di più anche in questo tour. Senti, ci dai riferimenti internet per saperne di più? Sì, riferimenti internet c'è il sito del film, che è il trenovamosca.it, e lì si trovano le date, foto e anche molte informazioni sul materiale che è stato usato. Bene. Michele, io ti ringrazio, un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille a voi. Ciao. A presto. Michele Manzolini, co-regista del documentario Il treno va a Mosca, in uscita a partire da oggi nelle sale giovedì 8 maggio. Luca Immesi, co-regista del film Ritual, una storia psicomagica in uscita in sala oggi giovedì 8 maggio. Luca, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, c'è anche Giulia qui con me. Benissimo, che è l'altra regista. Giulia, ci sei? Ciao. Oh. Allora, un po' al buio, io non ho avuto modo purtroppo di vedere il film, raccontiamolo a chi ci ascolta. Psicomagia, che è la danza della realtà. È il rito che si vede alla fine del film, quello che la zia curatrice compie sulla nipote, che è poi la protagonista del film, Lia. Sì, e su questo atto diciamo gira, ruota attorno tutta la vicenda, che è la vicenda di una coppia in crisi, in seguito ad un episodio, diciamo piuttosto tragico. Lei lascia lui e si rifugia dalla zia che in Veneto, che è questa, è la curatrice del villaggio e cura sia con la medicina diciamo popolare che con la psicomagia, essendo stata sposata con il defunto Fernando, interpretato da Alejandro Jodorowsky, che la fa in sogno la notte. Allora vi chiedo a questo punto, com'è nato tutto il progetto a partire dal libro di Jodorowsky? Sì, noi abbiamo scritto, eravamo rimasti molto colpiti dal questo rituale psicomagico e dalla psicomagia in generale, e volevamo fare appunto un film sulla psicomagia. Poi una volta che la sceneggiatura era quasi ultimata, ci siamo accorti che probabilmente avremmo dovuto chiedere, anche se era liberamente tratto, un assenso all'inventore della psicomagia, che è appunto il grande Alejandro Jodorowsky. Siamo riusciti a incontrarlo. In questo incontro gli abbiamo detto: guarda, stiamo facendo un film sulla psicomagia, ti interesserebbe leggere la sceneggiatura? E lui ci ha detto no. Quindi però da questo primo rifiuto ci ha dato il numero della sua agente, noi abbiamo insistito. Siamo giovani, sconosciuti ma professionisti, ci abbiamo creduto e lui probabilmente ha apprezzato questo. Sì, noi abbiamo mandato la sceneggiatura all'agente, a sorpresa 2 settimane dopo l'agente ci ha richiamato dicendo: guardate che Alejandro è rimasto colpito dalla vostra sceneggiatura, la approva e anche vorrebbe fare un cameo nel film, se voi vi dà la possibilità di inserirlo in un cameo nel film, se voi siete d'accordo. E noi chiaramente eravamo entusiasti. Senti, allora due sono gli elementi chiaramente di interesse: uno è appunto la presenza di Jodorowsky e poi è corredata di tutto questo che c'è dietro, che ci avete appena raccontato rispetto alla sua presenza, e l'altra è la scelta di distribuzione indipendente, di uscire con loro. Sì, no, noi in realtà siamo, allora, non siamo con distribuzione indipendente, siamo con Mariposa Cinematografica, okay, che però diciamo collabora, già collaborato con distribuzione indipendente, mi pare, per Spaghetti Story. Sì. Allora il film nostro è già uscito all'estero, è stato venduto in 3 paesi. Noi abbiamo una distribuzione francese che si chiama The Suspect, che ha fatto un ottimo lavoro, ci ha portato in vari festival internazionali e ha venduto il film in 3 paesi: Giappone, Australia e a Taiwan. Sì, a Taiwan. Mentre per l'Italia è stato diciamo molto più difficile il percorso distributivo, perché comunque è il nostro primo film, non è un film convenzionale, non è non è la solita commedia italiana facilmente piazzabile, e di conseguenza abbiamo avuto bisogno di più tempo per cercare un distributore che credesse nel progetto. Alla fine con Mariposa abbiamo ci ha offerto un piano distributivo interessante, perché comunque il film dovrebbe uscire in 15 copie non in simultanea, ma con questo, come si vuol dire, a macchia di leopardo. Quindi prima usciremo a Roma al Barberini questa sera in anteprima, e poi alle 20:30 al Barberini oggi, e poi al Lux sempre da oggi. Sì, da stasera in poi. Poi spettacoli alle 20:30, alle 22:30 a Lux, poi usciamo a Perugia in contemporanea oggi, poi settimana prossima a Vicenza, poi Firenze, Verona, Bologna, Sicilia, si dovrebbe aggiungere Milano, e quindi diciamo, e noi per ogni città che si aggiunge penso che presenzeremo almeno per la prima giornata, per la prima serata di proiezione. Sì. Senti Luca, in chiusura la curiosità chiaramente è tutta legata alla psicomagia. Quali sono le caratteristiche che vi hanno affascinato? La psicomagia è sicuramente un tema affascinante, e noi l'abbiamo scelto proprio anche perché era stato trattato dallo stesso Jodorowsky e anche in parte da Battiato, però non in maniera diretta. Quindi a noi abbiamo scelto il tema anche perché era un tema insomma in qualche modo inesplorato. E poi a me piaceva molto perché ho studiato psicologia e ha assolutamente a che fare con la psicologia. Un atto psicomagico consiste in un'azione che un terapeuta prescrive e che serve per parlare direttamente all'inconscio bypassando la coscienza e per curare un trauma passato, quindi a me interessava proprio. Sì. Diciamo che è un po' l'opposto della psicanalisi, dove uno diventa conscio del problema, mentre con l'atto psicomagico tu dovresti saltare il passo di essere conscio del problema e andare direttamente alla risoluzione. Ok. Quindi è una teoria, insomma, molto intrigante. Cioè. Adesso io volevo solamente aggiungere una cosa, che il nostro film ha un filo narrativo ben preciso, è in tre atti, non è un film surrealista ed è un film per tutti. Benissimo. Sì. E oltre alla psicomagia, insomma, comunque è un thriller. Sì, ha forti tinte thriller. È anche un dramma, una storia d'amore, sì. Parla di un rapporto malato tra una donna fragile e un uomo sadico e narcisista. Sì. È stato definito come l'incomunicabilità, uno spaccato sull'incomunicabilità della coppia moderna. Benissimo, siete stati chiarissimi. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e risentirci alla prossima. Grazie mille, crepi il lupo. Ciao. Ciao, ciao. Luca e Giulia, registi del film Ritual, una storia psicomagica in uscita in sala oggi, giovedì 8 maggio. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ecco noi Alberto Raffa di Barter Multimedia per parlare della distribuzione del film Lovelace in uscita in sala oggi, giovedì 8 maggio. Alberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, la storia di Linda Lovelace, qual è, per chi ci ascolta, raccontiamola un attimo. Ma sì, Linda Susan Boreman, questo è il suo nome di battesimo, ha poco più di 20 anni quando conosce l'uomo che diventerà suo marito. Lei è una ragazza cresciuta in una famiglia estremamente conservatrice che le ha spesso vietato di vivere con la spensieratezza tipica di quell'età, e viene così appunto ammagliata da quest'uomo che è al di sopra delle regole e che le fa pregustare un nuovo sapore, che è quello della libertà. Ma ben presto suo marito si rivela per quella che è, un uomo violento e disturbato che la costringe a prostituirsi, avvicinandola al mondo della pornografia. Lei di fatto diventerà una grandissima star della pornografia degli anni 70, facendo ed essendo protagonista del film Gola Profonda, che tutti conoscono, e dopodiché però purtroppo la sua storia diventerà una storia anche di violenza e di soprusi, poiché appunto il marito la costringerà a fare una serie di cose anche al di fuori dell'industria pornografica, insomma. Anche dei seguiti del film che le ha dato successo, è quasi obbligata, lei non andava assolutamente, insomma. No, assolutamente, lei appunto era una persona molto ingenua, per cui il marito le ha prospettato questa carriera cinematografica che poi di fatto si è soltanto limitata ad un primo film a luci rosse, ma non solo, lei non voleva assolutamente poi più essere protagonista di certi tipi di pellicole, ma lui la costringeva anche a prostituirsi al di fuori del mondo cinematografico. Tra l'altro di quel film che ha rappresentato, insomma, l'esplosione del fenomeno hardcore in tutto il mondo ed è stato il più grande successo di film a luci rosse di tutti i tempi, lei ha avuto solamente le briciole. Dopodiché la sua storia ci dice che si è avvicinata al movimento femminista statunitense, ha pubblicato anche un'autobiografia in cui ha denunciato, insomma, tutto il oltre al fatto di avere avuto questa esperienza con un marito violento, anche tutto lo sfruttamento legato al mondo del luci rosse. Sì, assolutamente, perché questo film ha incassato oltre 600 milioni di dollari, ma a lei ne sono arrivati soltanto 1250, perché appunto, come dicevo prima, il marito la usava proprio come una marionetta e la sfruttava lei, la sua immagine a 360 gradi, per cui di fatto questo film racconta la storia oltre allo schermo e dietro le quinte di Linda Lovelace, che di fatto è stata una persona che purtroppo ha avuto la sfortuna di incontrare un marito che l'ha costretta ad approcciare a questo mondo, anche a prostituirsi al di fuori del cinema a luci rosse, e che tra l'altro l'ha appunto sfruttata in tutti i sensi, però sì, ha avuto poi lei la consapevolezza e il coraggio di reagire appunto pubblicando questa sua biografia e denunciando sia il marito che l'industria pornografica. Senti Alberto, per quanto riguarda la Barter, è un'avventura distributiva in campo cinematografico piuttosto recente. Per quanto riguarda la Barter, da cui io sono stato delegato da Valentina Gardani, che è la distributrice della pellicola, che in questo momento si trova all'estero e per problemi di fuso orario non ha potuto fare lei questa intervista, io sono comunque il responsabile appunto delle produzioni di Barter. Diciamo che Barter sì, si è avvicinata non da molto al mondo della distribuzione, però è già da anni che comunque è sul mercato cinematografico realizzando produzioni e coproduzioni cinematografiche e non da molto anche di distribuzione, ma a parte Lovelace in futuro ci saranno anche molti altri film che distribuiremo in tutta Italia. In quante copie esce oggi? Ad oggi esce in 134 sale italiane su tutto il territorio nazionale, esclusa la Valle d'Aosta, il Molise e la Basilicata. Principalmente viene distribuito, ad esempio, soltanto nel Lazio sono circa 30 sale, di cui 14 a Roma, con sale anche di fama prestigiosa come l'Adriano Multisala e il Barberini. Bene Alberto, io ti ringrazio, ricordiamolo allora, Lovelace in uscita in sala oggi giovedì 8 maggio, a risentirci presto. Grazie mille, spero di esservi stato di aiuto e abbastanza chiaro. Perfetto. Grazie. A presto, ciao. Buona giornata, grazie. In linea c'è Giulia Grassilli, direttrice della 14ª edizione di Human Rights Nights a Bologna dal 9 al 18 maggio. Giulia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao a tutti. Allora, chiaramente ne avevamo parlato anche qualche edizione fa, un festival che ci interessa. Di cosa si tratta, Giulia? Allora, Human Rights Nights è il festival di cinema, arte e musica dei diritti umani. È un festival che appunto ormai questa è la 14ª edizione, utilizza tutti gli strumenti creativi possibili per poter dibattere e approfondire questioni dei diritti umani e valorizzare le creatività plurali e la diversità che sono presenti nella nostra società. Infatti è nato come festival di cinema, poi piano piano si è aggiunta la musica, l'arte, conferenze, adesso da quest'anno sport, da qualche anno il cibo, insomma, e quindi nel festival ci saranno la visione di 50 film, ci sono circa 15 appuntamenti musicali, c'è un mercatino che chiamiamo il mercatino verde del mondo, che è dedicato alle cucine gourmet del mondo di Bologna, quindi dalle Filippine al Perù, al Senegal, però di tutti i cittadini bolognesi, poi all'ambiente anche, quindi ci saranno prodotti degli orti, piante, eccetera, e poi gli approfondimenti che noi faremo, che sono una conferenza sulle nuove povertà, però declinata appunto in 5 punti, che sono diritti negati, dignità alla vita, doveri e responsabilità, ma anche benessere, felicità e diritto alla cultura e cittadinanza, quindi per capire che cosa sta succedendo adesso in termini di crisi, lavoro, casa che non c'è, ma anche per capire di chi è la responsabilità di questo e che ha il dovere appunto di sapere fare qualcosa, e la resistenza e la reazione delle persone che comunque sia trovano alternative, quindi attraverso la decrescita felice oppure gli orti urbani o comunque il riciclo e il riuso degli spazi, trova comunque una soluzione. E puntando la carta sulle nuove generazioni e le nuove cittadinanze come anche una risorsa in più da valorizzare. E poi lo sport, quest'anno partecipiamo a diversi eventi sportivi, tra cui la Tra Bologna, e una conferenza su sport e integrazione, e a un certo punto il cortile del Cinalumiè si trasformerà in una palestra a cielo aperto con parkour, showdown, thai box, capoeira, cricket, insomma anche lì per far vedere che il nostro mondo è pieno di diverse anime e culture ed è bellissimo, è bello così. Senti, e nella musica anche sì. Questo si riflette. Tornando sì. Però al cinema, che è il nostro argomento, dicevi di 50 opere, e ci sono paesi su cui vi siete attenzionati in particolare? No, di solito noi guardiamo in tutto il mondo, cerchiamo di selezionare in base a quello che è un po' la tematica, quindi magari se troviamo appunto dei film che sono in tema li prendiamo, ma soprattutto selezioniamo, abbiamo guardato oltre 50 festival nel mondo, tra i più importanti come Cannes, Berlino e Venezia, e meno come per esempio i piccoli festival magari di cinema africano o di cinema dei diritti umani in Venezuela, ecco, per dire qualcosa, però cercando di trovare i film più belli e più espressivi, più forti, insomma, dal punto di vista dei diritti umani, pensando che comunque noi guardiamo a una visione positiva dei diritti umani, cioè sì. Quindi al rispetto, alla denuncia, sì, ma sempre dando una valorizzazione forte alle persone. Quindi abbiamo oltre 30 paesi rappresentati, sì. E non penso che ce ne sia uno di più di meno, insomma ci sono naturalmente 3, 4, 5 film italiani, perché le produzioni italiane sono naturalmente nel nostro cuore, ma sono film che vengono dalla Cambogia alla Cina, Africa, da tutte le parti, veramente, Brasile. Bene. Senti, e ci sono dei temi dei diritti umani più presenti rispetto in questi film che presenterete? Ci sono delle tematiche più ricorrenti rispetto ai diritti, certo, umani? Anche lì sono un po' meno, quasi, insomma, sono molto varie, però per esempio ti posso dire che apriamo con il film Omar di Ania Abu Assad, in omaggio alla resistenza del popolo palestinese e anche in occasione del lancio della campagna per la liberazione di Barghouti, che è stata lanciata nel 2013 da Robben Island insieme a tanti premi Nobel che avevano poi, insomma, colleghi di Nelson Mandela, e per appunto fare un focus sulla Palestina. Poi faremo vedere, ci sono due o tre film molto belli sui diritti dei bambini e quindi sull'infanzia, per esempio Bakroman sui bambini strada in Burkina, oppure Warwitch sui bambini soldato. Poi ci sono alcuni film sulle tematiche appunto delle nuove povertà o dell'ambiente, della lotta allo spreco, come Food Savers di Valentino Turno, oppure ci sono film anche sulle prigioni come Polinter, che parla delle prigioni del Brasile, sarà presentato da Amnesty International, sulla migrazione e sulle minoranze come per esempio Mare Chiuso di Andrea Segre, ma anche Va Pensiero, che è uno dei film che ha vinto il premio Mutti a Bologna sulla migrazione, altri corti. Abbiamo circa 20 corti, mi sembra, sì. Anche lì è molto vari tra finzione, documentario e animazione, e poi abbiamo, mi sembra, 8 film di finzione, lungometraggi, e il resto sono documentari. Però si varia, abbiamo 3 piccole perle, che sono 3 microfilm fatti di 7 minuti l'uno, fatti nel Film Center di Phnom Penh in Cambogia. Abbiamo qualche documentario per esempio sulla questione dell'economia, cioè quindi per esempio dell'economia e dell'ambiente, quindi per esempio Tiger Mountain sulla Cina, che parla dell'inquinamento atmosferico e della sopravvivenza, insomma, delle persone che lavorano nelle fabbriche che inquinano, e per esempio anche Blackout, che parla della questione dell'elettricità in India. insomma sono un po' varie, ecco. Sì, diciamo sì, che noi nella nostra scelta non siamo proprio classici nella scelta, insomma alcuni festival come Amnesty o Human Rights magari guardano più ai diritti civili e politici, invece il nostro sguardo è molto ampio, molto ampio. Comprende anche l'ambiente, la cultura. Certo. Senti sociale. Giulia, in chiusura diamo i riferimenti per saperne di più sul programma, riferimenti internet? Sì, allora è www.humanrightsnights.org. Benissimo. Oppure potete trovarci su Facebook facendo la ricerca con Human Rights Nights, oppure il nostro acronimo HRNS VO. Benissimo. Oppure ci trovate anche, se abbiamo un blog, insomma, comunque direi humanrightsnights.org. E poi sul programma anche del Cinema Lumière, secondo me lo trovate abbastanza online. Sì, sì, sì, sì. Giulia, e una poi aspettiamo, certo. Un abbraccio e a risentirci presto. Grazie mille. Grazie. Ciao, ciao Giulia. Grazie a voi. Giulia Grassilli, direttrice della 14ª edizione di Human Rights Nights a Bologna dal 9 al 18 maggio. Roberto Proia di Notorious per parlarci della distribuzione di Devil's Knot fino a prova contraria, anche questo film in uscita in sala oggi giovedì 8 maggio. Roberto, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve a tutti, grazie di ospitarmi, insomma, è la mia prima volta. Senti, un film importante a partire dalla tematica, giusto Roberto? Sì, è un film molto importante perché prende come spunto un caso di cronaca giudiziaria molto famoso negli Stati Uniti, un errore giudiziario, per parlare del pericolo del pregiudizio. In breve, tre bambini vengono uccisi e vengono accusati tre adolescenti soltanto in base al fatto che, diciamo, si vestono in maniera strana o ascoltano musica heavy metal, ma senza nessuna vera prova. Quello che racconta il film è la lotta di un investigatore privato e della madre di una delle tre vittime per scoprire la verità. L'investigatore privato è un premio Oscar ed è Colin Firth, anche la madre è un premio Oscar ed è Reese Witherspoon, ed è nel film è diretto da Atom Egoyan. Senti Roberto, si parla dei profondi Stati Uniti d'America e c'è un cattolicesimo oltranzista, chiamiamolo così, vecchio stampo, che però è una facciata perché nasconde innanzitutto una violenza diffusa e poi una compattezza che riguarda non solo tutto il corpo sociale ma anche la magistratura e la polizia, perché questo caso viene gestito in una maniera univoca. Esattamente, praticamente tutti quanti è come se avessero bisogno di trovare un capro espiatorio in tutto ciò che non era assimilabile alla comunità. Tutto ciò che era al di là della comunità, quindi come comportamenti, atteggiamenti, eccetera, veniva condannato e, diciamo, hanno preso questa scusa per mettere insomma sotto accusa tre ragazzi che non avevano fatto nulla se non essere poco allineati alla comunità. Il problema è che uno di questi tre fu condannato a morte, gli altri due all'ergastolo. Poi diciamo la verità alla fine per fortuna trionfa, cioè è voluto un po' ma poi ha trionfato, ma lo shock di questo film è proprio il fatto che c'è una volontà ben precisa, già si era emesso il verdetto, era quasi inutile fare il processo. Anche perché poi il sangue non si è fermato, come sappiamo, rispetto ai titoli di coda, e ha riguardato alcune persone coinvolte nel processo in un modo o nell'altro. Esattamente, quindi davanti alla facciata perbenista e insomma che sale in cattedra o meglio su un piedistallo e giudica, scopriamo che molte delle persone coinvolte come accusatori in realtà avevano non solo un alibi per commettere l'omicidio, ma c'erano delle prove indiziarie che avrebbero tranquillamente potuto condurre a loro. Quindi alla fine diciamo gli accusatori era come se stessero sfogando su dei capri espiatori colpe in realtà che erano loro, ma loro comunque avevano una facciata invece perbenista che li salvava da eventuali persecuzioni. Senti Roberto, per Atomegoyan mi è sembrata un'opera piuttosto insolita rispetto alla sua produzione precedente. Sì, esiste sempre questo appunto, questo sottotesto. Non mi meraviglia che abbia scelto questa storia, perché c'è questo appunto sottotesto di alla Twin Peaks, se vogliamo, comunque una cosa un po' distorta, una distonia tra il perbenismo e appunto certi comportamenti aberranti. Quindi diciamo questo fatto di cronaca, come si dice a Roma, cascata a fagiolo per lui. Però sì, diciamo che questo è il suo prodotto probabilmente più commerciale, proprio perché è un legal thriller, perché ha 2 premi Oscar nel cast e perché comunque è basato su una storia vera. Senti, la scelta Notorious di distribuirlo? Guarda, la scelta da sicuramente il cast, comunque sia Colin Firth che Reese Witherspoon danno delle interpretazioni magistrali. Io l'ho scelto dopo averlo visto, quindi non su sceneggiatura. Il risultato ci ha veramente convinto, perché è un film hollywoodiano da tutti i punti di vista, ma intrattiene, però lancia un messaggio secondo me molto importante, anche a livello artistico, delle qualità che a me fa piacere che vengano veicolate al cinema. Diciamo dietro la patina dell'intrattenimento puro. Quindi diciamo l'intrattenimento in questo caso è un cavallo di Troia per portare al cinema un prodotto di qualità. Sì. Senti, da oggi nelle sale in quante copie? 280, è un'uscita molto importante. Eh sì, direi. Bene, sì. bene, ci sarà modo allora di vederlo. Senti Roberto, bene. Io ti abbraccio, magari ci sentiamo prossimamente per altre novità. Sì, grazie mille, grazie a voi ragazzi. Ciao. Buon lavoro. Ciao, grazie. Roberto Proia di Notorious sulla distribuzione in sala del film Devil's Knot fino a prova contraria di Atomegoyan in sala da oggi giovedì 8 maggio. Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema il giovedì dalle 14 alle 15. Eccoci. Ecco noi Pio De Emilia, co-regista del documentario Nuguo, nel nome della madre, che sarà oggi in programmazione al Maxi qui a Roma e dal 14 maggio prossimo, la prossima settimana, al Cinema Palestrina a Milano. Pio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Salve, buongiorno. Tanto complimenti, perché me lo sono goduto ieri, un film di interesse antropologico, e anche dal punto di vista dell'etnicità di questa storia, perché è una storia che non conoscevo, una popolazione che non conoscevo. Sì, diciamo che proprio certamente è una storia etnica di un paese lontano e apparentemente l'ultimo che potrebbe darci una lezione di come dire economia familiare, ce le sta dando in tanti altri settori, ma certo la Cina non è, nell'immaginario collettivo la Cina non è il paese dove le donne sono diciamo più tutelate che in altri paesi, è un paese profondamente maschista ancora, basti pensare al fatto che le femmine non sono gradite quando nascono. Io cercherei proprio di allargare, di eliminare subito questo carattere etnico, dunque minoritario, dunque periferico, no? Occasionale, perché l'esempio, il modello, il suggerimento che ci dà questa popolazione è un suggerimento che secondo me e secondo noi, anche la mia collega con cui ho fatto il film, potrebbe essere assolutamente un modello applicabile anche nella nostra società. Perché dico questo? Perché a differenza della famiglia patriarcale, che è fondata sul potere del maschio e tutta una serie di corollari repressivi delle donne sin da quando sono piccole, basti pensare al fatto che nella maggior parte delle famiglie italiane ancora ai maschietti non li si fa lavare i piatti, non li si fa fare il bucato o il letto, invece le femminucce devono dare una mano in casa subito, no? Ecco, questo già la direbbe lunga. E quello che noi abbiamo sempre pensato in Occidente è che la crisi della famiglia cosiddetta tradizionale giudaico-cristiana è quella che ha provocato la disgregazione sociale, quella che provoca diciamo il disastro sociale, e invece è esattamente proprio il contrario, è la famiglia patriarcale che per sua definizione provoca questo disagio. Cioè, se tu all'interno della famiglia discrimini nel genere, ti ritroverai poi dei ragazzi, degli adolescenti e degli adulti che trattano le donne in maniera invereconda e inaccettabile. Ecco, questa cosa in quel posto non esiste. Non esiste perché fin dall'inizio vieni educato nell'assoluta eguaglianza dei sessi, e tutti fanno tutto, e non c'è questa forma del padre padrone perché non c'è il matrimonio e non c'è nemmeno la convivenza. Questa è la cosa proprio interessante. Si separa la parte affettiva, passionale, sessuale del rapporto uomo-donna da quella economico-sociale di gestione della famiglia. Sì. Oh, tra l'altro, che sia un modello lo riconoscono le stesse Nazioni Unite dalla metà degli anni 90, se non vado errato. Sì, sì, c'è stata questa dichiarazione che noi abbiamo ovviamente citato nei titoli del nostro film, perché ci sembra un momento interessante per far capire al pubblico che non stiamo parlando di una tribù primitiva che non ha avuto contatti con il resto del mondo e che continua a mantenere una forma di organizzazione sociale unica e non necessariamente coordinata nel mondo contemporaneo. Questa è gente che ha internet, che ha il suo telefonino, che gira con le macchine, con le moto, che cura il turismo, che ha i soldi in banca, che fa gli investimenti, che viaggia e che ritorna, e soltanto poi ha una struttura sociale, una struttura familiare che è completamente diversa, e che, ed è questo che ci ha attirato molto a noi italiani che viviamo questo profondo imbarbarimento progressivo dei costumi e del trattamento delle donne con il nostro record di femminicidi, è questo che a noi è interessato. In questa società non esiste la violenza domestica, non esiste lo stupro, non esiste la violenza di genere, e di conseguenza anche la violenza sociale in genere è molto ridotta rispetto ad altre società. Oh, la cosa che mi interessava, forse il punto cruciale di tutto questo di questa costruzione familiare matriarcale, e poi di tutto quello che ne deriva, è la posizione rispetto al possesso. Sì, ecco, una delle frasi è proprio questa, no? Questa signora che noi abbiamo seguito, di cui siamo stati ospiti della famiglia, a un certo punto ci fa questa bella dichiarazione, cioè dice che per Imoso l'amore non è assolutamente legato col possesso, ma più che altro con l'affetto e la cura. Quando abbiamo chiesto della gelosia, per esempio, loro hanno detto: noi non possiamo essere gelosi, perché se una persona è felice nell'avere un'altra relazione, noi li vogliamo bene, noi dobbiamo essere contenti di questa cosa. Quindi mentre in Occidente siamo più portati a dire ti amo dunque sei mia, o comunque mi aspetto che tu sia mia, o viceversa, loro invece dicono ti amo dunque sei libero o libera. Sì, e un'altra cosa è che dicevi che non sono isolati, perché comunque vengono in contatto anche con un'altra etnia nella zona. Siamo nell'Himalaya a 2700 metri di altitudine, è che comunque anche le altre tra virgolette etnie con cui vengono a contatto e decidono di unirsi con un uomo, una donna moso, apprendono, diventano parte integrante di quella comunità. Non succede assolutamente, non succede viceversa, assolutamente. Quindi chi si avvicina ai moso apprende le usanze moso. Beh, voglio dire, sono curioso di vedere quanti occidentali non sarebbero disponibili a vivere in una società armonica dove a occuparsi di tutte le cose, anche non soltanto pratiche ma logistiche, economiche, politiche, siano delle anziane signore sagge. E noi sappiamo tutti quanto sia importante, quanto siano capaci le donne rispetto a noi maschiacci di gestire più cose allo stesso momento in maniera saggia, meno arrogante, meno violenta, meno aggressiva e meno ricattabile dai processi di corruzione, insomma, questo lo sappiamo tutti, no? Sì, molto certo ci sono delle eccezioni, ma insomma diciamo che tendenzialmente le donne sanno essere meno mascalzone degli uomini, su questo non c'è nessun dubbio, quindi penso che sia molto attraente per tutti immaginare una società dove appunto le cose sono gestite in maniera più competente, più saggia soprattutto. Una cosa veramente che vorrei ricordare per gli ascoltatori è che anche in Italia esistono delle forme di maggiorasco e di famiglie dove l'eredità è passata tutto al primogenito, sarebbero incostituzionali ma di fatto ancora esistono, per esempio nell'Alto Adige c'è l'istituto del maso chiuso, no? Per conservare la proprietà indivisa ancora oggi si lascia tutto al primogenito, appunto si chiama il maggiorasco, e lì gli altri figli che teoricamente potrebbero anche opporsi e vincerebbero probabilmente la causa non lo fanno e vengono liquidati per la loro parte. Ecco, questa è una cosa molto simile, ovviamente da Imoso la cosa succede da parte della matriarca, non del patriarca, ma il passo avanti più saggio è quello di non lasciare tutto per forza alla primogenita, bensì alla più meritevole delle figlie, se ce ne sono più d'una. Sì, e questo sì. La dice lunga sulla saggezza di questo popolo, perché non è detto che il primogenito sia il migliore di tre figli, potrebbe essere anche un idiota e quindi è molto meglio lasciarlo alla seconda o al terzo. Senti Pio, anche in relazione al fatto che non esiste una lingua scritta e quindi la tradizione viene passata per via orale e con l'esempio, attraverso anche soprattutto la famiglia, che è un nucleo piuttosto allargato, e c'è comunque si tratta comunque di un rispetto alle cifre, ecco, sai quante sono i Moso oggi in Cina, e se c'è un rischio di segregazione, estinzione, sì. Guarda, la popolazione Moso ufficialmente viene contata attorno alle 40.000-50.000 persone. Ovviamente pian pianino si stanno mischiando, perché come dicevamo prima ci sono gli Han, che sono la popolazione dominante in Cina, che stanno calando in quella zona, e alcuni di questi mettono su famiglia. Molte di queste unioni comunque sono destinate a fallire, quindi terminano, perché è veramente difficile per uno Han, che come dicevamo prima ha una mentalità molto maschilista, molto padroneggiante della famiglia, di coniugarsi non tanto con le donne Moso ma con tutta la società Moso, che è una società dove il rapporto di coppia conta estremamente meno del rapporto di famiglia e poi della società. Tutte le decisioni vengono prese in gruppo, c'è una condivisione, un solidarismo che oserei dire proto-socialista, nel senso che più ancora di quello che poi si è verificato a livello economico e politico, penso che fosse presente in questa società da prima. Stanno diminuendo perché molti stanno anche uscendo dalla regione, stanno cercando di andare all'estero, perché sono persone che non restano chiuse, diciamo, conservano dentro di loro questa loro tradizione, questi loro valori, però poi cercano anche loro di andare all'estero, trovare fortuna. Il rischio di estinzione c'è, ovviamente, però c'è anche la possibilità che il loro seme, questo seme di una società diversa, di una famiglia diversa, possa essere invece sparso attorno, prima di tutto in Cina e poi, perché no, anche all'estero, e sicuramente portano qualcosa di positivo, portano nulla di negativo. Voglio dire, se una donna Moso arrivasse in Italia e si sposasse con un italiano, certamente potrebbe migliorare l'italiano e non peggiorare se stesso. Sì, anche perché hanno quello che emerge anche perché hanno un bel carattere, insomma. Sì, non solo, ma quello che emerge dal documentario è che hanno una grande apertura verso il prossimo che è diverso da loro, insomma. Assolutamente. Senti Pio, in chiusura ti chiedo intanto i riferimenti internet per chi volesse saperne di più del documentario, e poi se ci sono ipotesi distributive prossimamente. Guarda, noi siamo degli newcomers, opera prima per entrambi, no, non abbiamo ancora un distributore, quindi ben venga se qualcuno si fa viso. Su internet si può trovare, basta digitare NUGUO, e viene fuori qualche cosa, viene fuori sia quello che abbiamo messo su Vimeo e su YouTube. E intanto quelli che sono a Roma oggi possono venire a vedere il film dal Maxi, e il 14, come avete detto in apertura, al Cinema Prestina di Milano. Per il resto speriamo che, appunto, non è tanto perché vogliamo venderlo per forza, perché veramente è un documentario che può aiutare la gente in Italia a capire quanto sia assurdo, quanto sia inaccettabile ormai la violenza contro le donne, soprattutto questa violenza assolutamente inconcepibile, che è quella di un uomo che dichiara di aver amato, di amare ancora una persona, e poi la uccide. Sì. Tra l'altro io ti saluto, Pio, e tra l'altro ti dico che così al buio, prima ancora di vedere il documentario, avevo messo nella newsletter e sul sito della radio un fotogramma del film, pensa, del documentario, perché mi piaceva la storia. Grazie mille. Un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, arrivederci. Pio D'Emilia, co-regista del documentario Nuguo, Nel nome della madre. In collegamento con Giulia Rinalduzzi di Amarena Company per parlare dell'iniziativa Appuntamento al Buio. Giulia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti. Allora, una cosa interessante, perché appunto questo appuntamento al buio, perché si tratta di fruizione cinematografica gratuita. Sì, assolutamente, e appunto vi volevo parlare del nostro nuovo progetto, che è Appuntamento al Buio. Ed è un format che abbiamo creato in Amarena, e che è già, diciamo, on air da alcuni mesi, e che nasce dall'idea di invitare al cinema un pubblico selezionato senza svelare però il titolo del film, quindi fino al momento della proiezione. Il nostro, diciamo, l'obiettivo di Appuntamento al Buio principale è quello di fornire alle classi di produzione o di distribuzione uno strumento per individuare, diciamo, il target più coerente con il film, e quindi delineare delle nuove strategie di distribuzione per il film. Però diciamo che quindi se da una parte il pubblico viene invitato a vedere un film in anteprima in modo assolutamente gratuito, senza sapere appunto il film fino al momento della proiezione, quindi proprio fino al momento dell'ingresso in sala, spengono le luci, a quel punto sanno di che film si tratta. Dall'altra parte, diciamo, le case di distribuzione hanno la possibilità di capire, diciamo, l'impatto e l'appeal e il gradimento del film, in, appunto perché si parlerà di film in completa anteprima, a volte anche due mesi prima dell'uscita al cinema. Abbiamo lavorato con diciamo, alcuni film come Tutta colpa di Freud, ad esempio, che era in fase ancora di pre-produzione, quindi non era del tutto montato, le persone hanno potuto vedere, diciamo, un film veramente a due mesi dall'uscita, con il regista in sala e la possibilità appunto di scoprire una pellicola ancora non terminata, e in questo modo hanno potuto dare al termine del film una loro visione tramite un nostro questionario che gli abbiamo appunto consegnato alla fine del film, dove davano indicazioni sulla scena migliore, l'attore, insomma, principale che gli era piaciuto, se c'erano delle scene che invece non erano piaciute particolarmente. In questo modo la casa di produzione ha potuto capire se tagliare o non tagliare alcuni pezzi, se effettivamente, insomma, il film valeva la pena tenere delle scene oppure valorizzarne altre. Mm-hmm. L'aspetto, questo, diciamo, l'aspetto interessante di Appuntamento al Buio mi sembra questa l'assenza di una influenza preventiva da una parte e dall'altra, sia dal pubblico verso la produzione e distribuzione che viceversa, insomma. Esatto. Beh sì, poi è anche bello, insomma, l'idea della sorpresa, nel senso che comunque le persone tra l'altro registrarsi è veramente semplice, perché basta andare sul sito, che è appunto www.appuntamentoalbuio-cinema.it cinema.it, oppure anche sulla pagina Facebook di Appuntamento al Buio, che è sempre appuntamentoalbuio.cinema, e a quel punto possono registrarsi a compilare un breve questionario che proprio corrisponde ai loro gusti cinematografici, quindi dall'attore preferito a se preferiscono vedere film in lingua originale, diciamo cercare di individuare appunto la persona e i propri gusti cinematografici, anche per invitarla poi a delle anteprime che corrispondono ai propri gusti, quindi ai propri gusti cinematografici, ma anche se hanno un attore o un regista in particolare che amano. A quel punto, una volta registrati, una volta che abbiamo un appuntamento al buio, noi selezioniamo gli ospiti sulla base appunto di questo questionario e li invitiamo. Le persone a quel punto ricevono un invito via mail e possono recarsi al cinema dando semplicemente il proprio nome e cognome all'ingresso, dove c'è appunto un nostro personale, hostess dedicati, che li accompagnano in sala e vedono il film. Sei stata chiarissima. Il procedimento è molto semplice. Benissimo. Giulia, io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime novità. Assolutamente, assolutamente. Stasera saremo al primo appuntamento, diciamo, di maggio a Roma. E insomma speriamo che vada tutto bene. Seguiteci su Facebook. Benissimo. Va bene, a presto. Grazie, ciao. Grazie mille. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Bene, Giulia Rinalduzzi di Amarena Company per l'iniziativa Appuntamento al Buio, e dovremo avere un ultimo collegamento. E torniamo in compagnia di Alessandra Speciale, direttrice della 24esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano dall'altro ieri 6 fino al 12 maggio. Alessandra, ben ritrovata. Ciao a tutti. Allora, con te ci eravamo sentiti poco meno di un mese fa, se non sbaglio, per l'iniziativa Ospita un regista, che era propedeutica al festival. Sì, certo, eravamo appunto alla ricerca di milanesi che aprissero le loro porte di casa per ospitare i nostri registi. La cosa ha funzionato e quindi ci sono molti giovani registi che hanno potuto partecipare al festival, anche grazie alla partecipazione del nostro pubblico. Senti, un festival che ha una sua storia, 24 edizioni, tre continenti, quali sono le caratteristiche di quest'anno, Alessandra? Ma una delle note di continuità, come dicevi, quindi i nostri continenti, Africa, Asia, America Latina, anche tanto cinema italiano invece girato in quei continenti o sulle tematiche più legate all'immigrazione e all'integrazione in Italia. E poi la seconda edizione quest'anno della sezione speciale Film That Feed, film che nutrono, quella dedicata alle tematiche Expo. Ci stiamo preparando ad accogliere la prossima esposizione Expo 2015, che sarà qui a Milano l'anno prossimo, con dei film dedicati al cibo e tutte alle tematiche legate all'alimentazione, ma sempre con un occhio molto molto attento soprattutto alla qualità dei film e quindi non solo alle tematiche, ma noi guardiamo innanzitutto l'espressione cinematografica, artistica. Quindi è stata una lunga scelta quest'anno, abbiamo visto più di 700 film, ne presentiamo 50, quindi è stata una selezione molto molto ardua. Nei nostri concorsi, come ti dicevo, in questa sezione Film That Feed, che è al secondo anno, poi la sezione delle commedie, che è sempre molto apprezzata dal nostro pubblico in collaborazione con Zelig, e la sezione Razzismo Brutta Storia in collaborazione con la Feltrinelli, che riunisce un po' tutti i film del festival che abbordano in modo molto ampio le tematiche del razzismo. E poi il nostro Festival Center nel casello di Porta Venezia, che è un po' un festival nel festival, nel senso dove accade tutto ciò che non è cinematografico, ma che ha un nutritissimo programma dal mattino fino alla sera di incontri, di mostre, di feste e anche di degustazioni, visto che il cibo diventa un cavallo portante per il nostro festival da quest'anno fino all'anno prossimo. Senti Alessandra, delle anticipazioni ce le avevi fatte già la scorsa volta, visto che siamo in pieno svolgimento, come sta rispondendo Milano? Ma guarda, direi molto bene, siamo molto contenti, eravamo anche un po' preoccupati perché devo dire che questo è un, noi ci siamo spostati di periodo l'anno scorso, siamo sono solo 2 anni che siamo a maggio, prima eravamo a marzo, ed è un periodo molto intenso di offerte culturali a Milano, però devo dire che la risposta del nostro pubblico affezionevole ormai, cosa 24 anni, è sempre molto grande, e quindi abbiamo fatto un pienone in apertura, d'altronde avevamo anche un film molto importante, il nuovo film di Boucherev, Two Men in Town, con grandi attori come Forest Whitaker e Harvey Keitel, ma anche ieri grande pienone a San Fedele con la presentazione dell'Orso d'Oro Berlino, Black Hole Thin Ice, e alla presenza anche del regista in Liao, che poi incontreremo domani al Festival Center alle 5 per 1 ora e mezza di incontro fitto con lui, un personaggio incredibile, un film molto bello, e una persona che tra l'altro è anche molto piacevole da raccontare, che ha molte molte cose da raccontarci sulla Cina contemporanea. Ma anche ieri pomeriggio, ad esempio, che sai, i pomeriggi sono anche dei momenti un po' delicati nei festival, soprattutto nei giorni feriali, abbiamo presentato l'ultimo film di Mohamed Malas, grandissimo regista siriano, che ci ha parlato questa sua opera girata clandestinamente a Damasco durante il periodo difficile che sta vivendo questa città. Vuol dire che il San Fedele, che è un sala di 400 posti, era quasi piena, per cui non possiamo lamentarci. Bene, allora in chiusura ci dai riferimenti internet per la programmazione? Certo, trovate tutto sul nostro sito festivalcinemaafricano.org. E quindi tra l'altro un sito nuovo che ha dato un'impennata anche di like, di followers al nostro pubblico, e quindi su questo sito troverete tutte le indicazioni per poterci seguire da oggi fino a lunedì sera, quando chiuderemo con la cerimonia di premiazione e la presentazione del film che avrà vinto. Un abbraccio e a presto, Alessandra. Un abbraccio, ciao. Grazie, ciao. Bene, Alessandra Speciale, direttrice della 24esima edizione del Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina a Milano fino al 12 maggio. È tutto per Visionari di questa settimana. La scaletta di quest'oggi con tutte le informazioni la trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, con gli ospiti di questa puntata, le uscite in sala di oggi giovedì 8 maggio. Le nostre indicazioni e suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda i film sul piccolo schermo, link per riascoltare la puntata della scorsa settimana, ma anche l'archivio del 2013 e del 2012. Idem per quanto riguarda la pagina Facebook di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. È tutto, alla settimana prossima, sempre il giovedì dalle 14 alle 15.